Omosessualità, lecita o illecita? Da un certo punto di vista è molto imbarazzante trattare se l'espressione dell'omosessualità sia lecita o no, perché sarebbe come trattare se sia lecito oppure no l'odio. Nella nostra vita vi sono dei principi guida che vengono messi in pratica in tutta la nostra esistenza, senza che ce ne accorgiamo. Principi guida senza i quali non è possibile vivere da esseri umani. Appena siamo concepiti, mediante l'unione dei gameti maschili e femminili, il nostro essere eredita dei principi che sviluppano la nostra personalità e il nostro fisico. Noi non abbiamo bisogno di comandare al nostro cuore di pompare il sangue, non abbiamo bisogno di preoccuparci della crescita del nostro corpo e del suo sviluppo, fino alla maturità, perché tutto ciò ci viene dato fin dal concepimento. Vi sono leggi fisiche e morali che non abbiamo bisogno di creare, ci sono e basta. Noi dobbiamo solo riconoscerle, accettarle e viverle. Una di queste regole universali dell'essere umano è quella di essere attratti dal sesso opposto. Non abbiamo bisogno di inculcare ai bambini che l'umanità si divide in due grandi parti, che vi sono dei maschi e delle femmine. Non abbiamo bisogno di incoraggiare i bambini maschi di essere attratti fisicamente ed emotivamente verso le femmine. Ciò gli è dato per natura. Anche la persona più distratta sa che se ci è un'esortazione da fare ai bambini e giovani è quella di non avere troppa confidenza con quelli del sesso opposto. Nella mia povera e limitata memoria ricordo molto vagamente quando prima delle scuole elementari con i bambini del rione si giocava ai dottori, con lo scopo di scoprire con curiosità le nostre caratteristiche sessuali. Non vi era certamente nessuna concupiscenza, non vi erano intenzioni cattive, ma le caratteristiche sessuali diverse sono sempre state oggetto di curiosità in qualsiasi età. Una donna mi confidava che all'età di 3 anni urlava a sua mamma che le rivelasse come e da dove nascessero i bambini, mettendola in imbarazzo davanti a coloro che ascoltavano. Perciò è inutile nascondere questa inevitabile e insistente morbosa curiosità in merito al sesso, come è inutile nascondere che ci sono persone che sono attratte non dal sesso opposto ma dallo stesso. E poiché la norma è essere attratti dal sesso opposto, dato che è normale geneticamente e psicologicamente andare verso un tipo di sessualità che completa la nostra, come giudicare coloro che hanno tendenze omosessuali e le praticano? La pratica dell'omosessualità non sarebbe un problema sociale se non fosse morale, come del resto ogni altra cosa. L'omicidio, il furto, l'adulterio, la frode potrebbero anche non costituire problemi sociali se non fossero morali. Perciò è inevitabile che ci si ponga il problema se chi esercita l'omosessualità è nel lecito oppure no. Non tanto per la pratica in sé perché per un omosessuale non si fa del male a nessuno, ma se è conforme ai nostri canoni morali. La risposta potrebbe essere abbastanza ovvia, perché ognuno di noi ha i suoi canoni morali, per cui uno potrebbe fare ciò che ritiene giusto. Il problema sorge quando questi canoni si inseriscono in una società che possiede delle regole morali. Se poi queste regole morali personali sono in accordo con le regole etiche della società, non significa ancora che ciò sia giusto, perché se uno ritiene giusto vendicarsi e il principio della società in cui vive è quello della vendetta, non necessariamente significa che la vendetta sia giusta. Per forza di cose, occorre appellarsi a un principio che non sia soggettivo, e questo principio, come abbiamo visto, è quello della natura, la quale vuole che ogni caratteristica sessuale sia attratta verso quella opposta. Così è tutta la creazione che non è condizionata da nessun principio morale. Ogni elemento vegetale e animale cerca il sesso opposto. Questo è un principio creazionale, principio che non è condizionato dalla nostra etica. La creazione, quindi, è già una risposta molto valida al nostro interrogativo in merito alla liceità o meno dell'omosessualità. Ciò che non è creazionale o naturale non appartiene al lecito. Se io cammino con le mani e non con i piedi, vado contro natura. È vero che non è un problema morale camminare con le mani, ma se il sangue mi va alla testa, se ho dei problemi di salute obbligando in tal modo altre persone di occuparsi di me e spendere dei soldi per curarmi, allora ciò che è contro natura si trasforma in un fatto morale. Se andare contro natura non avesse delle implicazioni di salute potremmo anche sorvolare, ma dato che andare contro natura non porta beneficio né a me né agli altri, allora devo rivedere il mio comportamento. Per quanto ci risulta, l'esercizio dell'omosessualità non favorisce la propagazione della specie e comporta malattie che non fanno parte dell'ordine delle cose di questa vita. Una cosa è contrarre le malattie comuni, altra cosa è partecipare alla diffusione di malattie a causa di un disordine creazionale. Una cosa è farsi del male perché si inciampa, altra lo è se mi ferisco perché ho voluto volare saltando dal balcone. Il primo male è lecito, il secondo è illecito. Un'altra ragione per la quale l'esercizio dell'omosessualità è illecito è data dall'etica del cristianesimo. È vero che non tutti coloro che si professano dei seguaci di Cristo hanno gli stessi punti di vista in merito alla morale, però la legge del cristianesimo contenuta nella Bibbia, quale parola di Dio, è molto esplicita in merito alla sessualità. Non avrai relazioni carnali con un uomo, come si hanno con una donna, è cosa abominevole, Levitico 18 e 22. Dopo un simile ordine perentorio, è molto difficile sostenere che l'Eterno Dio ammetta l'omosessualità, anche perché se una qualsiasi interpretazione potesse essere a favore dell'omosessualità, per coerenza bisognerebbe che accettasse anche il divieto che segue subito dopo. Non ti accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa, né alcuna donna si accosti ad una bestia per accoppiarsi con essa. È una perversione ripugnante. Levitico 18 e 23. Poiché il divieto di avere relazioni sessuali con degli animali è messo alla pari con l'omosessualità, non vi possono essere dubbi che entrambi le relazioni siano ripugnanti, disgustose. Diversamente, se nonostante tutto si continuasse a sostenere che l'esercizio dell'omosessualità è lecito, allora la legge di Dio non ha più nessun valore. Questa insistenza nel pensare che l'esercizio dell'omosessualità sia lecito è supportata dal fatto che vi sono persone che sono a favore di chi pratica l'omosessualità. Non ci sarebbe nulla di strano che altre persone abbiano un'etica diversa in merito alla sessualità se non fosse che alcune di queste si professano cristiane e usano la Bibbia per avvalorare la loro etica. Un influente autore omosessuale, in un libro dal titolo La parola è chiara, la Bibbia reclamata dalle lesbiche e dagli gay, si esprime così. Se in Gesù Cristo non c'eri, è più né maschio né femmina, a Dio non importa quale sesso amiamo, di che sesso siamo o di che sesso crediamo di essere. Credo che a volte si passino i limiti della decenza nell'usare la parola di Dio. Se a Dio non interessa quale sesso amiamo, perché ha distrutto le città di Sodomia e Gomorra, di Adma e Bitzeboim? Non leggiamo forse nella parola di Dio che il Eterno disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò per vedere se hanno veramente fatto secondo il grido che è giunto a me? Genesi 18, 20-21. Nella lettera di Giuda non leggiamo forse che Sodoma e Gomorra e le città vicine, che come loro si erano abbandonate alla fornicazione e si erano date a perversioni sessuali contro natura, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena di un fuoco eterno? Anche volendo, non sarebbe neppure lontanamente possibile pensare che Dio sia a favore dell'esercizio dell'omosessualità, come non è a favore che uomini e donne praticano sesso con animali, come non è a favore dell'odio e della vendetta. Dobbiamo vedere l'omosessualità nell'ottica di una delle tante trasgressioni che gli uomini commettono nei confronti di Dio. Non dobbiamo demonizzarla, ma neppure sottovalutarla. Quando l'Apostolo Paolo scrisse a dei credenti in Cristo: «Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. 1 Corinzi 6, 9 e 10 metteva il peccato dell'omosessualità al pari di ogni altro peccato, e proprio perché è un peccato, l'esercizio dell'omosessualità deve essere trattato come tale, come i ladri, gli avari. Gli oltraggiatori e i rapinatori devono rivedere il loro comportamento davanti a Dio, abbandonando il loro modo di agire per onorarlo. Così è dell'omosessuale. Se non vi è peccato che Gesù Cristo non possa perdonare, ad eccezione della bestemmia contro la persona dello Spirito Santo, non vi pure peccato che l'uomo non possa abbandonare. Non dobbiamo pensare che l'omosessualità sia un particolare peccato impossibile da lasciare, perché è difficile lasciare qualsiasi abitudine che ci ha reso schiavi. Per me non fumare non costituisce una grande difficoltà, ma per chi ne è schiavo, lasciare quel poco di nicotina diventa a volte un vero dramma. Così, se l'omosessualità è considerata sbagliata davanti a Dio, chi ne è vittima deve rendersi conto che il suo sforzo è simile a quello che deve intraprendere chi è schiavo del fumo. Forse qualcuno avrà delle obiezioni sulla facilità di lasciare una pratica sessuale illecita, poiché è inutile nascondere che la sessualità è un istinto che produce una relazione unica nel genere umano, ma non va mai dimenticato che lo sforzo di esprimere una giusta sessualità vige ogni giorno nell'ambito del matrimonio. Lo sforzo dell'omosessuale di contenersi non è inferiore a quello del coniuge nell'essere costantemente fedele, premuroso, disponibile, amabile. E se vogliamo vedere la cosa in modo obiettivo, vivere un giusto e armonioso matrimonio è una meta molto più difficile da raggiungere di quella di un omosessuale che deve rifiutare solamente tale pratica. Lo dimostra il fatto che nessuna coppia, ma proprio nessuna, vive completamente il rapporto di coppia secondo i parametri di Dio, mentre chi ha inclinazioni omosessuali può obbedire pienamente al volere di Dio in merito alla sessualità. Perciò, l'omosessuale si rallegri, perché non gli è chiesto di essere esente dagli impulsi, come non è chiesto a nessuno di non provare istinti sbagliati, dato che è impossibile, Marco 7:21, ma gli è ordinato da Dio solo di non esprimere le sue inclinazioni illecite. E sii riconoscente. È vero che non sei responsabile di quello che sei, ma sei responsabile di quello che fai, di ciò che sei. Jean-Paul Sartre. Un contributo. Cristianesimi Giancarlo Rinaldi. Edizioni GBU 2008 Pag. 277-278. Aprile 2005.